Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto, un caro saluto come di consueto anche da parte di Gloria Guerrera, la nostra redattrice, di Valerio Rocchetti, il nostro regista, e salutiamo insieme a voi, diamo il benvenuto a Massimo Franco. Grazie dell'invito. Notista politica del Corriere della Sera, ha lavorato in molti giornali, ricordiamo Avvenire, Giorno, Panorama, ha molte collaborazioni, però noi lo seguiamo con molta attenzione anche perché aveva citato un mio articolo, gli faccio chicchi per vanità, sul ultimo saggio Imperi Paralleli del 2005 che sta per uscire a New York per la Random House, ed è appena arrivato in libreria una sua fatica molto piacevole da leggere, lo dico, Andreotti, La vita di un uomo politico, la storia di un'epoca. E è uno sguardo un po' inusuale quello, poi tutto sommato, di guardare lo scorrere di un pacchetto di anni attraverso lo scorrere di un destino, di un uomo. Lo si faceva fino agli anni 40 forse, poi si pensava meglio prendere la società in blocco. Beh sì, e poi devo dire anche che il fatto che sia vivo aggiunge ambiguità forse a questa biografia, però è anche vero che Andreotti non a caso si definisce postumo di me stesso, il che vuol dire che Andreotti in qualche modo è un insieme di vite che si affastellano l'una sull'altra e di una serie di Italie. Per cui credo che in realtà sia un personaggio abbastanza unico che legittima, a mio avviso, questa operazione che può sembrare un po' singolare, perché rappresenta molto del passato di questo paese, ma nello stesso tempo in qualche modo simboleggia anche un passato che non riesce ad essere superato del tutto. Quindi è un uomo che è stato crocevia di tanti poteri, poteri visibili e meno visibili, di tanti rapporti fra Stato italiano, elettorato, Vaticano, magistratura e rapporti internazionali, e quindi in qualche modo suscita ancora qualche curiosità, soprattutto perché tutti questi rapporti poi sono avvolti da una nube, non so se ancora luciferina, comunque certamente ancora incuriosita, perché c'è ancora un margine di ambiguità molto netto. Beh, non condividendolo politicamente, io posso dire che penso che poi, diciamo, il tempo gli darà ragione, lo rappresenterà per quello che è, probabilmente una delle glorie del cattolicesimo italiano. Perché in realtà io... Più romano, secondo me, che italiano. Ma no, io un po' dissento, perché in realtà noi abbiamo, diciamo così, anche per convenzione, delle idee per cui mettiamo nello stesso pacchetto Schumann, Adenauer, De Gasperi, Monet. In realtà io... Così, ho l'impressione che se bisogna fare un parallelo tra Adenauer, forse più Andreotti che De Gasperi. Nel senso come grande tecnico del potere, come uomo di governo. E anche come, diciamo così, disegnatore di scenari, cioè qualcuno che sapeva, per così dire, leggere la propria cultura e tentare degli schemi, diciamo così, degli schemi proiettati verso il futuro. Poi in realtà l'Europa di adesso non è quella di Adenauer. Se Adenauer avesse pensato a un Parlamento europeo più simile alla Grande Loggia che a un Parlamento cristiano sociale, forse ci avrebbe ripensato. Però non si può dire che l'Europa sia nata senza Adenauer. Cioè, tra i tanti scenari possibili, poi diciamo alle generazioni successive l'onere e anche l'onore di mediare e ripensare e aggiungerci tratti originali. Però anche il ruolo, per così dire, un po' minoritario che ha sempre avuto all'interno di una grande balena bianca, se andasse, secondo me, rivalutato per quello che poi sostanzialmente è, lì abbiamo un pensiero, uno schema. Sì, anche se secondo me Andreotti passerà la storia, se ci passerà, ma credo di sì, soprattutto per questa vita così, tra virgolette, movimentata, soprattutto come un grande gestore, come uomo di governo e dell'amministrazione dello Stato, più che come elaboratore di cultura. Credo che la caratteristica di Andreotti sia stata quella non tanto di indicare nuovi scenari, ma di dare l'avallo della parte più moderata del paese, che si riconosceva nella DC, a scenari via via successivi, via via più avanzati, che la Democrazia Cristiana elaborava. Quindi in qualche modo era una specie di fanteria che seguiva la cavalleria morotea, ad esempio, e dava in qualche modo la legittimazione e la rassicurazione all'elettorato moderato, soprattutto cattolico ma non solo, di questo scenario, come giustamente lei diceva, sul quale però lavoravano altri. Quindi in qualche modo Andreotti gestiva quello che gli altri elaboravano, a volte per assecondarlo e per farlo andare avanti, altre volte forse per frenarlo, per renderlo più digeribile appunto ad un elettorato che dubitava di queste evoluzioni. Ma avendo una cultura giuridica, io poi leggo sempre, per così dire, il nesso di causalità e non posso, diciamo così, evitare di pensare che comunque, anche gestendo quel potere, quello era il potere dove, per esempio, tramite la RAI, la cultura di sinistra veniva inglobata non per essere, per così dire, evirata, ma per essere riconosciuta anche nella sua specificità, dove, diciamo così... Certo, questo è un dubbio. La laicità non scritta nella Costituzione, la presupposta dei costituenti cattolici, veniva portata a galla. Non dimentichiamo che Andreotti è anche colui che ha firmato delle leggi che sono... la promulgazione di leggi molto importanti nel nostro paese, per esempio la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza. E... sulla quale ha sempre dato una versione, tra l'altro, un po' autogiustificatoria, nel senso diceva tanto non sarebbe cambiato nulla seppure avessi sospeso momentaneamente la mia carica in quanto cattolico e poi l'avessi fatto firmare da un altro, perché a volte gli è stato rimproverato dagli ambienti più conservatori cattolici di essere stato cinico, invece... lui dice tanto l'avrebbe firmata qualcun altro, sì, ma non forse cambiava bisogna nulla. Anche ricordare che è Baldovino di Belgio, il primo ministro Pic d'Olanda, che si autosospesero, però poi in realtà non è che Belgio e l'Olanda hanno avuto una specie di, diciamo così, ripresa di coscienza cattolica, è a partire da quel momento che qualcuno parla di eutanasia di quelle due chiese. Infatti il riferimento di Andreotti era proprio al re Baldovino. Grandi questioni intorno a un libro, Massimo Franco. E capita spesso di accorgersi di affrontare un argomento apparentemente cavalcando l'onda della cronaca politica e poi in realtà si è subito immersi in qualcosa che riguarda l'anima profonda di ciò che abbiamo vissuto, di ciò che stiamo vivendo. Beh, in questo caso... paradossalmente è stato il contrario, nel senso che oggi Andreotti è una persona, nonostante sia presente ancora in molte manifestazioni, un po' appartata dalla cronaca politica. La cosa paradossale è che invece, mentre si affronta Andreotti, mentre si parla di Andreotti, poi vengono fuori comunque delle strane novità che aggiornano l'analisi su questo personaggio e sui rapporti con certi poteri, perché devo dire che una delle cose che mi ha più sorpreso è stata intanto questa famiglia Andreotti che per la prima volta è uscita allo scoperto per parlare del padre, quasi per proteggerlo rispetto a questa fama luciferina che ha sempre avuto. E la seconda sono stati i miei incontri con alcuni magistrati della Procura di Palermo che sono andato a trovare, e il dottor Caselli che adesso è a Torino, poi il dottor Loforte, il dottor Natoli, e la cosa che mi ha molto colpito è che loro, pur ribadendo tutte le accuse verso Andreotti, hanno anche detto, soprattutto il dottor Natoli, che quando si trovarono di fronte la notizia del bacio fra Andreotti e Totò Riina, loro in realtà fin dall'inizio lo ritenevano inverosimile. Quindi ecco che un'analisi che riguarda qualcosa di passato e di ormai archiviato probabilmente nella memoria storica del paese riaffiora con una novità. Ecco, mi sembra questo tipico del personaggio Andreotti, è un personaggio che o direttamente o indirettamente può sempre riservare sorprese. In genere la massima da cui partiamo in questo nostro cielo provvisorio la leggiamo e diciamo così la commentiamo all'inizio, però so che è una massima andreottiana, forse funzionerà benissimo per chiudere questa prima parte. Sì, non so se sia andreottiana, l'ha detta lui, però può darsi venga dalla sua saggezza papalina, magari la... sottratta e copiata a qualche vecchio papa. Comunque è questa: in una vecchia intervista Andreotti disse, quando gli chiesero cosa farebbe se avessi il potere assoluto, se avessi il potere assoluto, rispose, sicuramente farei qualche sciocchezza, che mi sembra un'ottima linea di condotta per un potente. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. E di Massimo Franco, la nostra guida questa settimana, abbiamo parlato nella prima parte di alcune idee, di alcune analisi contenute nell'ultimo libro di Franco Andreotti, La vita di un uomo politico, la storia di un'epoca. 20 anni fa c'è stato un altro libro, Andreotti visto da vicino. Sì, quello era un Andreotti fino al 1993, quindi mancava la parte della vita di Andreotti più drammatica e in qualche modo anche, devo dire, nella quale l'immagine di Andreotti è cambiata, perché credo che Andreotti si inquieta molto quando uno dei suoi avvocati, Giulia Buongiorno, gli dice: lo sa Presidente, a lei il processo ha fatto bene, e lui risponde: avrei preferito evitarlo. Ma in realtà Giulia Buongiorno dice una verità, nel senso che l'immagine così negativa di Andreotti, forse per il suo comportamento molto corretto nei confronti dei magistrati, perché è difficile trovare, diciamo così, un politico che così pazientemente abbia accettato di difendersi nel processo, soprattutto per il raffronto che abbiamo oggettivo con l'attuale presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il quale ha assunto un atteggiamento più conflittuale, più recriminatorio. Quindi credo che questo, quasi di rimbalzo e forse anche con un po' di strumentalizzazione da parte della sinistra, ha portato a contrapporre l'Andreotti buon imputato esemplare al Berlusconi imputato discolo, imputato ribelle. E questo, ripeto, alla fine ha giovato ad un'immagine di Andreotti che forse appunto ne è uscita, non dico ripulita con la candeggina, ma certamente con un rispetto superiore a quello di cui godeva prima. E qui credo che sia giunto il momento per la massima di questa seconda parte. Sì, no, la seconda frase breve, che credo sia di Orazio, io l'ho trovata in un libro e mi è piaciuta molto perché penso si attagli un po' alla situazione psicologica di oggi nel nostro paese, è questa: la collera è una follia di breve durata. Siccome vedo un paese che è molto incollerito e che a volte ho l'impressione abbia una collera che nasce dalla frustrazione, che nasce dalla scarsa speranza per il futuro, ecco, c'è sempre un po' il timore che questa collera si prolunghi molto nel tempo e magari sfiori la follia. Per cui credo che in un momento come questo ricordare a tutti che la collera è pericolosa, anche se la rabbia a volte è giustificata, sia un modo per tentare di relativizzare i problemi e di guardarli con un occhio un po' più sereno. Sì, nel tuo libro, diciamo così, c'è un aspetto di Andreotti che qualche notizia era circolata, proprio in realtà è sempre stata, diciamo così, evitata, cioè che lo abbiamo visto appunto apparire a Palermo, fare battute, ricordiamo, diciamo così, diverse sue espressioni sulla soglia degli 80 anni, no? Aspettando la sentenza. Però si è dimenticato che come uomo, come famiglia, Andreotti vive dal punto di vista umano questa vicenda con una croce segnata dalla depressione. E diciamo, questo saper tenere tutto dentro casa e senza nulla lasciar trasparire. Beh, questo credo si debba soprattutto ad una famiglia che ritengo abbastanza eccezionale. E questa è una famiglia che ha sofferto molto, che ha sofferto con grande riservatezza, come aveva gioito con grande riservatezza. E Andreotti è stato sempre molto unito sia alla moglie, che aveva già avuto una grave depressione alcuni anni prima, ma che in questo caso si è aggravata, sia con dei figli che sono persone abbastanza singolari, nel senso che sono intanto molto autoironici ed ironici, che manifestano l'affetto verso il padre con l'ironia e che danno un'immagine di Andreotti un po' angelicata. Il che vuol dire che cosa? Che sono i figli così, oppure forse che Andreotti è un po' diverso dal mito? Questo credo sia una domanda che resta in sospeso. Io devo dire, non sono in grado di dire che cosa sia veramente Andreotti, perché la dimensione familiare è sempre diversa da quella pubblica. Però certamente per capire Andreotti è bene osservare e leggere anche le cose che riguardano la sua famiglia, perché completano la personalità e, se non altro, ci aiutano ad avere qualche dubbio. Ma io ricordo una famosa, cioè un incontro tra Predi con Viviane, con qualche coetaneo che lavorava nella diplomazia vaticana, scambiavamo così una volta alla settimana una cena e ci davamo al pettegolezzo spinto. Poi purtroppo qualcuno di loro non c'è più e qualche altro si è allontanato per motivi di lavoro. E eravamo convinti che Giovanni Paolo II e Andreotti non avrebbero mai legato, perché li vedevamo antitetici. E poi diciamo, pensa un po' te, e se il Papa si è informato, chi ha abolito le feste religiose, compresa la processione Corpus Domini? Andreotti. Chi ha firmato? Andreotti. Andreotti. Dice, quindi, un laicone, un laicista. Arrivato a quel punto, dopo 2 o 3 anni che era Papa, 5 anni che era Papa Giovanni Paolo II, sapevamo molto bene che la lista delle cose a firma Andreotti era una di quelle che, diciamo, in Polonia aveva spinto Carlo Wojtyła a imbracciare il pastorale come fosse una lancia. Invece in realtà le abbiamo visto abbracciarsi, cioè le braccia di Giovanni Paolo II si sono aperte. Anche in modo scandaloso, tra virgolette, nel senso che il Papa, ricordiamo tutti, benedisse pubblicamente Andreotti in piazza San Pietro alla vigilia di una richiesta di ergastolo per Andreotti in un processo. Credo che questo sia nato dal fatto, io su questo ho avuto a volte uno scambio di idee con Andreotti. Andreotti una volta mi ha detto, anche piccato, quando io gli dissi: ma ho visto che il Vaticano l'ha trattata sempre molto bene e fa venire anche dei sospetti, questo gli dissi. E lui mi ha risposto: ma non ti è mai venuto il dubbio che sia perché loro mi conoscono meglio di voi? Che mi è sembrata una cosa molto orgogliosa e nello stesso tempo molto piccata. Io credo che però nel rapporto tra Andreotti e Giovanni Paolo II ci sia anche un elemento legato un po' alla realtà dei processi e all'origine polacca del Papa, perché da quello che mi hanno detto Giovanni Paolo II vedeva, seppur in modo forse esagerato, arbitrario, non lo so, nella vicenda processuale di Andreotti il riflesso delle vicende processuali che riguardavano molti cattolici in Polonia perseguitati dal regime comunista. Allora, in alcuni ambienti vaticani si era consolidata in quegli anni la sensazione che una parte minoritaria della magistratura potesse usare questi processi per processare la classe politica cattolica italiana. E credo quindi che nella lettura solidale del Papa nei confronti di Andreotti ci fosse anche questa componente polacca. Poi la famosa domanda da 100 milioni di dollari è, diciamo così, già persa in anticipo, perché non ha... Beh, soprattutto perché i dollari valgono poco oggi. Allora facciamo 100 milioni di euro. Euro, sì, sì. Comunque, confessiamo, non siamo quelli che l'hanno vinti, che non stavamo a Catania, nessuno dei due. Ahimè no. Cioè, per comprendere se tutti abbiano perdonato Andreotti, basta leggere i giornali, si può fare la lista di quelli che, diciamo così, possiamo ritenere pacificati, di quelli che ancora aspettano magari la buona occasione. Ma Andreotti ha perdonato. Io non credo. Io penso che Andreotti voglia dimenticare quella fase, ma che il suo giudizio su alcuni magistrati resti molto aspro e resti il giudizio di un imputato che ritiene di essere stato ingiustamente processato e inchiodato a questa inchiesta per molti anni. Non credo che abbia perdonato. Poi un'altra cosa a me intriga molto, perché poi in realtà è il problema dei problemi. In questa Italia di oggi, in questa specie di orfanotrofio ideologico in cui viviamo, si cerca di trovare i compagnucci alla parrocchietta, ma diciamo, alla fine ci si ritrova semplicemente raggruppati per classe sociale o per diciamo, stile di vita. Poi c'è stata questa grande esperienza della Balena Bianca, la Democrazia Cristiana, e a distanza di 20 anni, con 2 analisi, forse tu puoi rispondere a questa domanda, ma i democristiani si volevano bene? Secondo me i democristiani si volevano bene, nel senso che sapevano di avere un obiettivo comune e sentivano molto il senso di appartenenza ad un partito Stato, che era quello della rinascita dell'Italia nel dopoguerra. Naturalmente all'interno di questo amore per la causa c'erano personalismi, c'erano anche i meccanismi spietati del potere, ma sempre, devo dire, con un approccio che permetteva di superare le crisi e di non ritenere mai che l'avversario andasse ucciso, tra virgolette. Quindi c'era il senso di un'appartenenza ad una causa comune, cosa che forse oggi c'è di meno. Vedo più personalismi, ma meno senso di una causa comune. Mi ha stupito un articolo, non so se di ieri o di oggi, dove, diciamo così, più o meno si sosteneva l'ardita tesi, il Moro credente, sì, andatelo a cercare, andatelo a trovare. Cioè, com'è che ancora oggi Andreotti viene riconosciuto immediatamente come il politico confessionale, mentre altri grandi democristiani come Aldo Moro, per esempio, non vengono ritenuti tali? Ma secondo me perché c'è una certa ignoranza di quella che è stata la FUCI, cioè la Federazione degli Universitari Cattolici, dalla quale venivano sia Moro che Andreotti. In realtà, a mio avviso, Moro e Andreotti erano più simili di quanto non si pensasse. E la loro fede anche era abbastanza simile. Io credo che sia Moro che Andreotti siano stati due grandi politici cattolici, tutti e due a loro modo molto laici, più di tanti cattolici di oggi che fanno politica, al centro-destra e al centro-sinistra, e con affinità che vanno al di là di quelle che sono le loro immagini ufficiali e forse abbastanza pregiudiziali. Devo dire che la cosa che vedo molto oggi è che dietro questa immagine di un potere che o si inchina alla Chiesa o la contesta e che punta molto sull'immagine giovane, sull'eternità, sul giovanilismo, in realtà c'è poca voglia di futuro e poca sensazione di futuro. Grande questione che Massimo Franco ci lascia aperta, soprattutto per qualche riflessione supplementare. Noi vi diamo appuntamento la settimana prossima perché il nostro tempo è scaduto. Grazie Gloria Guerrera che si sbraccia dietro il vetro per dirci che il tempo è terminato. Grazie Valerio Rocchetti e soprattutto grazie Massimo Franco. No, grazie soprattutto a voi. A risentirci.